appunto Ora e Lietus e Mif. Hanno raccontato le loro storie con più o meno colpi di scena, più o meno gente che capisce: ah, ma tua madre è, io sono quello, e bla bla bla. Tanti, in realtà non ci sono stati tanti giudizi, non particolarmente. Solo che poi sono usciti dal tempio. Aspetta che accendo la cam. Two hours later. Si carica la cam. Quindi lasciamo stare per il momento. Dopo. Escono dal tempio, appunto, Marika e l'altro di cui non mi ricordo il nome. Abbastanza delusi. Non mi ricordo il nome, Iona. Vianic. Iona. Ok. Marika e Iona abbastanza delusi. Marika più delusa di Iona, che invece ci dice: perché state raccontando cazzate? E insomma, lui ci ha cuccato, ha capito che abbiamo fatto. Ci sono stati fatti dei rituali, comunque qualcosa che riguarda Arva. Però non ha inquisito più di tanto. Mif ha provato a fare la saccente, la volpe di turno, a manipolare, eccetera. Gli ha detto: guarda, no, non usarmi. Troppo della musica mi ha distratto. Dopodiché siamo appunto tornati finalmente alla chiesa, fra tuoni, fulmini, pioggia e tutti bagnati fradici. Arriviamo finalmente alla chiesa, appunto, e salutiamo il vescovo. Lo aggiorniamo un po' sulle nostre cose, sui nostri avvenimenti, sul fatto che adesso Lieto è un avatar di Arva. Non viene menzionata però la condizione di Adone, diciamo, solo che forse che sta meglio, insomma. Dopodiché c'è stato il momento clou della sessione, ovvero in cui tutti si sono fatti le docce calde per pulirsi e stare al caldo, e Adone nudo bagnato. Grazie, Os, ti devo la mia vita. Dopodiché, insomma, tutti si sono un po' preparati per andare a dormire. Os e Mif, in verità, sono Nibel. usciti di nuovo. Nibel, porco Dio. Nibel e Mif sono andati a prendere dell'alcol. Ora e Lieto sono andati a dormire. Adone, che era l'unico sveglio, ha dovuto accogliere lui la ragazza, non la ragazza, ma una tipa che conosce Lieto. E ci sono stati degli scambi un po' strani su: ah sì, utilizzo la macchina per cavarmi gli occhi e farmi ricrescere. Adone era tipo: no, ti prego, non davanti a me, grazie. Poi stato svegliato, sono arrivati gli altri due, già belli alticci, è stato svegliato Lieto, sono state sbrigate le cose e dopodiché Adone è andato su a dormire. Doveva fare un esperimento con Mif, ma Mif se n'è uscita a un appuntamento galante con sappiamo chi. E invece allora è stato detto ad Adone: vabbè, Adone, tu vai a dormire, prenditi i medicinali che sei tranquillo. Adone ha avuto uno dei suoi sogni che non doveva avere, si è No, cacato le aspetta, aspetta, braghe. aspetta. Era venuto lieto, dillo. Sì, era venuto lieto a dirlo, perché Mif gliel'aveva detto. Il che rende sempre tutto peggio. E appunto questo perché i sonniferi di Adone sono stati manomessi chissà da chi. E però la sessione si è conclusa con Adone che si risveglia. E bene, siamo al passo. È da mattino. Ed è Da mattina. mattino. Siete nella stessa stanza, Adone e Mif, e vi risvegliate praticamente nello stesso momento. Avete avuto entrambi una sorta di incubo, più unsettling che spaventoso. Ok. Ti faccio una domanda giusto per Adone, oltre a essere spaventato, è a posto fisicamente, cioè non. Non ha gli effetti, non è indolenzito, non è rallentato. Perfetto. Adone si mette a sedere e si gira verso Mif. La vedi incazzata? Ma porco Dio! La vedi molto, un po' arrabbiata, la vedi. Proprio con un cruccio, no? E stesa pancia in su, tipo con le braccia incrociate che guarda il soffitto. Ed è incazzata. Ok, non era insomma, l'umore con cui speravo di incontrare Mif. Però Adone si alza dal suo letto e si avvicina a Mif dicendo buongiorno Mif. Buongiorno, Adone. Spero tu abbia dormito meglio di me questa notte. Continuo a fissare il soffitto, no? Sempre a braccia conserte, sempre proprio con le sopracciglia vicine, cioè proprio incazzata. A questo punto, vedendoti così, Adone dice: beh, magari di questo preferisci che ne parliamo dopo. Ti vedo un po' arrabbiata, ecco. Ciao. A dopo, Adone. E tipo si gira dall'altro lato, no? Cerca boh, di dormire di nuovo. Spoiler, non ci riuscirà. A questo punto, Adone prende le sue cose e va. Con tutta la tristezza e preoccupazione del mondo, esce dalla stanza per lasciarti anche un po' di spazi e va a prepararsi. Ok. Vorrei sapere Nibel e Lieto se si svegliano presto o meno. Assolutamente no. Lieto sì, Qualunque. però è tipo. Rimane a letto, chill. Cioè, la giornata prima è stata pesante, quindi. Cioè, Ok. si sveglia, si gira nella coperta. Si gira e rimane un po' lì. Nel tempo che rimani a letto nella tua nulla facenza, senti che anche Ora si è svegliata, ma dopo di te, non tantissimo dopo, però un po' dopo di te. E anche lei sbadiglia, pigramente si alza e rovistando tra le sue cose che non si porta dietro, cioè tipo si è fatta un angolo della stanza in cui dormite voi tre, in cui c'è tutta la sua roba impilata. E scavando tra questa pila di oggetti recupera, come si chiama? Il breviario, non mi viene la parola breviario, con tutti i cori. E si siede a gambe incrociate per terra, non, è una pergamena, quindi non lo sta sfogliando, lo sta srotolando, in silenzio. Buongiorno. Oh, non avevo notato che fossi sveglio. Buongiorno. Dormito bene? Che fai? Qualcuno ieri ha menzionato il fatto che voleva rileggere insieme a me le preghiere e stavo cercando quella che faceva funzionare la magia. E sei già sceso a fare colazione o come no? Alzato adesso. Ok, vado a cercare il latte e i cereali allora. Ciao! Mamma mia. Scendi a cercare il latte e i cereali. Ti imbatti subito in addone. E giù o Buongiorno. su ancora? Siete entrambi sul pianerottolo di sopra. Ah, ok, perfetto. Ok, vedi Adone vestito, con i capelli sciolti, Ok. che ti saluta e fa buongiorno, Lieto. Buongiorno, dormito bene? No, purtroppo. E vedi che lo dice questo comunque con un po' un tono di preoccupazione. Capisco. Ti avevo ricordato di prendere i sonniferi, sì? Sì, vero, sì. E non hanno funzionato. Ah, magari sono scaduti, bisogna andare a prenderne di nuovi. Vedi che lo fai un po' sorridere, dici. Sì, hai ragione, forse sono solo scaduti, è andata male quella dose. Con avanti e indietro nel tempo, non so come funzioni bene ancora questa cosa, le date di scadenza. Non vedi che ti mette a ridere, effettivamente. Dai, andiamo. cambiato. No, stiamo qui. Marito, Lui è apriamo un tornato attimo. indietro nel tempo da solo. Esatto, è andato a controllare se la dose era scaduta. E fa, no, guarda, era a posto. Fino a No, quel. ieri. Vabbè. La mia domanda Scusami, è, piccola se vai. parentesi, Bianic. Adone è consapevole che la dose era stata manomessa? No. Perfetto. Benissimo. E Non a sai questo neanche se sia punto. stata manomessa. Neanche lì è troppo. Ma fanculo, stai! Io, io Sirio sì, ma Adone no. E a questo punto Adone dice, andiamo a fare colazione? Sì, sì, spero ci sia latte e cereali. Serve proprio il latte e cereali. Vai a mangiare quella roba per colazione, intanto scendiamo le scale. È buonissimo, non capisci un cazzo di niente. Vabbè, Adone dice, tutte queste cose non le dice, a me portami rispetto. Guarda dall'alto in basso. Vabbè. Io che spero che cadi dalle scale fortissimo. Per le scale mi colpisce il fatto che c'è il punto stuccato del muro di colore diverso rispetto al resto. Vabbè. Ah, deve essere stata Oya questa. No, è stato il vescovo a ripararlo, ce l'aveva detto. No, no, parlavo del buco, non della riparazione. Ah, sì, il buco chiaramente l'ha fatto lei. Al piano di sotto, mi senti, Sirio? Senti? Dov'è? Okay. Scusate, dove sono? Dove è finito? Bravo. E al piano di sotto il vescovo è già sveglio e è in ginocchio davanti alla statua col capochino. Buongiorno, padre. Titolo corretto. Sì. Nota di guardare. Vescovo è la classe, in realtà è un sacerdote. Ok, allora buongiorno sacerdote. Sì, sì. Esatto. Mi aveva confuso sta cosa l'altra volta. E alza lo sguardo. La sua pelata riflette la luce del sole. No! È pelato? Sì, lo sai benissimo che è pelato. Tomb. Non lo ricordavo neanche. No, io è da sempre che me lo immagino, i capelli lunghi neri, un no, po' no. Di ilfo, un po' sexy. Perché c'ha da 5 milioni di anni come neri. Silver Fox, vabbè, i bianchi, Silver Fox. È pelato, pelato. Oh, è basato su quello di X-Files, il pelato di X-Files. Ma poverino, dai, perché gli hai fatto sto torto? Uno dei migliori personaggi. Infatti, siamo tutti d'accordo. Mai pelato. E alza lo sguardo e dice, svegli presto quest'oggi. Sono andato a letto. Chiedi a lui o... No, niente, dico... Guarda intorno a vedere se c'è un orologio. No, non ci sono, credo. Però ti chiedo se c'erate... Che ore sono, effettivamente? E credo sia poco dopo la settima. Ah, sì, è un po' presto. Beh, io mi sono svegliato. E finalmente tu lieto, perché si riempi? Non t'ho sentito... Scusami, Adone dice, effettivamente tu perché sei già in piedi? Guarda. Io mi sono addormentato molto presto e ho saltato anche la cena. Infatti adesso ho fame. Padre, lei, signore, gentiluomo, dov'è il latte? Ho già caricato la macchina, potete usufruirne. Ringrazio. Grazie mille. Mi appresto velocemente. Sì, vado. Prendermi il mio latte e cereali. Le ciotole ci sono, ma non credo che nessuno le abbia pulite. Vabbè, aggiunge solo più sapore, dice Lieto. Adone cerca disperatamente un altro contenitore, un piatto fondo, un bicchiere. Ma a parte che io non bevo latte e cereali, cioè, mangio cibo. Prendo un piatto, sì. Mangio il cibo vero, che esatto. Cazzo vuole? Sì, sì, sì. Salsicce. No, dai, gli do una sciacquata. Perché tedesco o perché omosessuale? Entrambi. Sì, why not both? Entrambi. Ci mancano i crauti. Ma no, colazione, madonna! Sì, c'è crauti. Una colazione bavarese. Leggero, leggero. Genio. A mezzogiorno di bavarese. La giornata. Colazione bavarese è con la birra. Ma la birra ok, perché alcolismo. Ma salsiccia crauti? Salsiccia, birra, qualcos'altro. Cosa, proteine, verdure. Sono contento abbia preso questa piega. Comunque, ognuno di voi riesce a mangiare quello che vuole. Pulire i piatti è leggermente più ostico, perché non c'è una macchina preposta a fare questa cosa. Quindi puoi usufruire di una spugna, che però è la spugna del bagno. E io non indagherei. Perché... Io ho una domanda a questo punto. Certo. Il prete, come cazzo rilava i suoi piatti? Non usa i piatti. Non usa i piatti, mangia con le mani lui. Sì. Ok. Ok. E... Da dove cazzo mangia? Dal pavimento? Cioè, come è fatta allora sta macchina che prepara il cibo? Delle focacce, delle cose... E allora la faccio ancora più bella. E mi faccio fare dalla macchina la tazza fatta di cereale. Sì. Con dentro il latte. È tutto cibo. Wow. Non serve fare. Ma si può fare sta cagata? Passi mezz'ora a capire come cazzo fare per programmare la macchina per farglielo fare, ma poi ci riesci. Ok, in quella mezz'ora ammetti che nel mentre Biff si alza e viene giù. Io mi immagino che la prima cosa che senti più che vedi è Lieto che sta smadonnando contro un'apparecchiatura. Intanto che dico, ma sei sicuro? Cioè... Sì, fidati, l'ho visto fare in università. Lascia fare, so ce la faccio. Vabbè, allora, cioè, una volta che dici l'ho visto fare in università, l'ho visto fare. Miff, che è tipo come i vecchietti che si fermano a guardare il cantiere da fuori dalla recinzione, tipo lei sulle scale, braccia incrociate, no, a guardare, tipo dire va sti scemi. Mi sorprenderà sapere cosa possono fare gli universitari, soprattutto se fuori sede. E poi quelli della sua azienda ce la lascia fare. Sì, è già tanto che non si stanno mangiando Adone... le panchine. Adone ha già una parvenza di serietà, no, di sanità, la sua università. Ah, ma perché ormai è finito il periodo universitario, ormai sei una persona adulta. Okay. Ah, giusto. Eccoci qua. Niente, vedete Miff che è in uno stato migliore di quando si è svegliato e fa... Ma cosa cazzo stai cercando di fare, Lieto, di prima mattina? Non puoi mangiare... Ho la spugna del cazzo e voglio mangiare il mio latte cereali. Ma li lavi con le mani e con il sapone? Esiste il sapone? Sì, esiste il sapone. Il sapone di Marsiglia. Appunto, infatti. No, la fai vestire, ma che schifo, no! Ma non con la spugna, col sapone, che schifo, no, ci lavi i vestiti con quello. È fatto col grasso del maiale, no, non lo voglio, grazie. Ah, non pensavo fossi vegano e guarda la tazza di latte e riguarda di no. Non sono vegano, mi fanno schifo i maiali. Ah, sì, musulmano. Oh, scusa. Ehi! Qualche altra minoranza? Esatto, no, è nero, quindi già è una minoranza. Ah, eccoci. Io mi prendo di Lieto dato dal fatto che sa come lo producono e non è esattamente la cosa più igienica del mondo, nonostante poi ci vai a finire a lavare i panni. Quindi te non ci vuole addosso, lavare non in bocca. Esatto. Comprensi. Puoi rotolare nella merda, ma mangiare merda. Mi fa alzare gli occhi al cielo, guarda Adone, fa spallucce, fa... Tu che hai mangiato? Tu che hai mangiato? Domanda, che cazzo è la colazione? No, adesso mi sono rotto il cazzo, adesso cerco colazione tedesca. Guarda che non si stava scherzando. Verranno fuori kraut, i wurster e i formaggi. I panni e panini, uova, formaggi. Vabbè, per yogurt direi no, quindi Adone dice, ma... Avocado un po' toast. Di pane. No, Adone... Sai che non è un tipo né da avocado toast né da matcha latte? È un tipo da iced latte, però. È da boba. È da boba, Adone. Ma sai che no? Lui è proprio da ice, da frappuccino. Da frappuccino. Che paura. E sì. Adone dice... Cosa che hai detto? Che paura. Crociazzo, ho detto. Ah. Va bene, ci sta. Potevi fare meglio. Ci sta. E Adone dice, ma... Del pane... Del formaggio. Semplice. Sta. E Miff, devi metterti in coda perché Lieto ci vorrà un po' prima che concluderà la sua opera. Ma posso richiedere una cosa? Cosa? Sai cosa? Voglio cercare di modificare la macchina. Fagli fare. Allora, si può fare, non hai le competenze necessarie per farlo. Cioè, è come se io adesso mi mettessi a riparare il televisore. Sì, e quindi? No, no, no. Basta che lo sai. Oh mio Dio. Adone passa il piatto che aveva con c'era ancora del pane e del formaggio e vedendo un po' la situazione dice vuoi favorire? Sì, anche perché sarà momento. Probabilmente sì. Il nostro ultimo tempo, intanto vado al piano di sopra. Non so se ti sveglia questa cosa, però ora ha trovato la cosa che cercava e c'ha un sussulto, un ah, eccola qua. E rimette via tutto il resto, tiene solo la pergamena, la sta riarrotolando, si avvicina alla porta, fa per uscire e guarda nella direzione di Nibel per vedere se sei sveglio. Lo dico subito. Ho fatto 7, secondo me sì. Io ho fatto 10. Odio, tirane un altro. Io? Ma no, dici, io. Più? Niente. Secondo zero. Me no, secondo si sveglia Nibel. Tecnologia. C'è un nome del genere, non mi ricordo. 3, tecnologia. 17. Porco Dio. E ci arriviamo tra un attimo. Vabbè. Gli altri sono andati tutti di sotto. Tu continui a dormire? No, no, si sveglia Nibel. Volevo specificare che Nibel russava come il tizio che russava urlando con di fianco la moglie, quello del meme. Sta uno schifo. Puzza l'alito di alcol in una maniera allucinante, ha un mal di testa assurdo. Ma che cazzo è Pjanic? È un malapenny. Antilire del 1943 con Mussolini stampato sopra. No, vabbè. Per favore, continuiamo. Scusa. L'ho visto mentre... Non interrompetemi, velo. Continuiamo. Niente, sta fuso in questo momento. Si alza, ci mette tipo 5 minuti soltanto per mettersi seduto sul letto. E si rimette la sua giacca. Si annusa. Non un c'è po'. La sua giacca. La giacca da fuori? Infatti non giusto c'è la giacca. Sì. Guarda che non trova la sua giacca, dice dove cazzo l'ho messa. si alza, si annusa un po', dice... Vuoi farti una doccia se vuoi. Sì, sì, infatti. E visto che ieri sera non l'avevo fatta, e guardo in stanza, non c'è nessuno. No, c'è solo Ora, che stava uscendo. Ok. Vabbè, vedo che esce, non la fermo neanche. Okay. Non neanche, cioè, tipo, il mio pensiero arriva per salutare Ora e, tipo, arriva un minuto dopo la voce. E quindi, vabbè, non sono sì, le sì. condizioni per effettuare un discorso, quindi... Vedo se c'ho... Dovrei avere un cambio, credo, nell'inventario, fammi vedere. Penso di sì, però comunque... In caso l'avevo i vestiti. Vabbè, l'idea è che vado a farmi una doccia. Ok. Va bene. Quindi ti prendi il tuo tempo. Non è un macchinario raffinatissimo quello per fare la doccia, quindi è una roba che sì. sai usare. Devo stare a testa china perché è troppo basso. E ritorniamo di sotto. La scena che vedete voi due, cioè Adone e Mif, è che Lieto sta usando le unghie, credo, per smontare la macchina, sì. perché non hai degli attrezzi con te. È il cucchiaio. Sta usando un cucchiaio per smontare una macchina. Una volta riuscito a togliere l'intelaiatura, sfruttando quel poco che ha visto dal tizio l'altro giorno, ve lo ricordate il tizio l'altro giorno? Donos, che... ok. Grandissimo uomo. Connette, anzi, separa alcuni di questi cerchietti che formano il meccanismo centrale dell'apparecchiatura e crea una specie di cortocircuito. C'è poi anche proprio una scossa, emette del fumo, c'è un brutto odore. Rimette il coperchio, fa partire l'apparecchiatura e come per magia questa produce latte cereali al cioccolato. Cioccolato non credo. Non credo per una serie di motivi storici. Oh. Non c'è nessuno. I cereali. cornflakes classici, glassati. Sì, sì, però sì. Puoi metterci una spezia a cazzo che vuoi tu, non il cioccolato. Cinnamon, cinnamon. Yes. Cannella, mi sembra che ci sia. E quindi sì, hai creato questo intruglio agli occhi degli altri. E alzo gli occhi al cielo. Thanks, Chief. E a mangiare il latte con i cereali, contentissimo. Il livello di fede di Arma sale di uno. Sì, e... niente, a questo punto è convinto che sia stato il dio. Certo. È come giusto che sia. E guarda, sarei tentato di dirti, vabbè, allora va bene anche il cioccolato. Fanculo. Fai travel. Fai shit. E... posso? Certo. Mentre Dieto fa questa cagata, Adone... perché è una cagata. Adone avuto, dice a Biff, stai meglio? Biff ti guarda, finisce di mangiare quello che le hai dato, oltretutto ti aveva ringraziato prima, e fa, sì, non capita sempre di avere questo tipo di sogni, quando capita è interessante, ma è anche tanto frustrante. Credo che posso capire bene il sentimento. Vuoi parlarne? No, più che altro vorrei andare a vedere. Magari questo pomeriggio, se ti va, andiamo in biblioteca della Zenith. A dire il vero, avevo una richiesta da farti. Oh, certo. Ieri, appunto, tu sei uscita da quello che mi ha detto Lieto. Ah, sì, è venuto a dirti di prendere i sonniferi, vero? Sì. I sonniferi non hanno avuto effetto. Vedi che Mif alza le sopracciglia come per dire... come? Cioè, tipo, lei è... questa cosa mi ha un po' preoccupato. Più che... era la dose dei mafiosi? No, era la dose della speziale. Ah. Già. Mm. Quindi... sei sicuro di averli presi correttamente? Sì, sono sicuro. La dose è quella lì, la quantità è quella lì. Ok. Sono divisi proprio anche, quindi non è... okay. Non ne ho preso di più, non ne ho preso di meno. Prenderne di più, alla peggio dormivo di più. Prenderne di meno potrebbe aver influito, ma non era una questione di quantità. Ok. Ovviamente, hanno perso effetto, forse? Potrebbe essere, è una cosa che sto considerando e che ovviamente mi porta a preoccuparmi un pochino. Avevo una richiesta da farti, Mif, onestamente. Dimmi, ti ascolto. E nel mentre guarda Lieto, no? Sto facendo una cattiva. No. Dice... non so se è una buona idea, ma per questo ne sto venendo a parlare, ma ti andrebbe di utilizzare la tua magia su di me adesso? Adesso? Non adesso in questo preciso istante, ma stamattina. Sto pensando che forse sia il caso di velocizzare questo processo. Quindi hai deciso? Arva ha detto che io potrei vivere un'intera vita senza preoccupazioni, senza problemi, senza bisogno di far accadere questa cosa, se non il giorno in cui muoio, in un certo senso. Però sono passati giorni e questa dose non ha funzionato. Non so se ho voglia di aspettare i mesi, cioè giorni, settimane, mesi, e soprattutto non so cosa potrebbe succedere più avanti. Vedi che Mif fa un piccolo sorrisino e fa: ah, mi piacciono. Mi piace quando sei risoluto e finalmente prendi una scelta nella tua vita, sai? Ti guarda un po' male. La sicurezza addosso. Cioè, ti sta bene la sicurezza addosso? Quando vuoi, io sono disponibile. E tipo fa un piccolo sorrisino, insomma, sai, quando sollevi soltanto una parte. Adone ti guarda un attimo alzarti. Però non commenta ulteriormente. Vedi che non gli è piaciuto questo ultimo tuo commento. Vai. In quel momento scende dalle scale Ora, che ha sotto braccio una pergamena vecchia, cioè si vede che è una roba di una certa epoca, e che non vi saluta nemmeno, va direttamente dal vescovo. Se volete fare qualcosa ditemelo, altrimenti vi faccio... Ciao Ora! Saluta Adone mentre passa. Nel mentre Mif, vedendo Ora, si ricorda di quello che è successo la sera prima, perché si era totalmente dimenticata di questo dettaglio, e guarda con occhi spalancati Adone, e dopo di nuovo Ora, e fa... Cioè proprio dentro di sé fa... Se ne sta in silenzio, se ne sta in silenzio. Però c'è stato questo momento dove, a quanto pare, si è ricordata di qualcosa. Successo qualcosa con Ora? No, è tutto a posto. Vecchio, ce ne siamo dimenticati, ma ieri era domenica. Buongiorno anche a te, sacerdotessa. Sì, abbiamo saltato la messa, non è una cosa positiva. Anche voi fate la messa, no? Cioè il tempio di Yel. Sì, normalmente abbiamo delle funzioni alle quali partecipano i fedeli. Ma questa chiesa non è molto frequentata e a quanto pare nessuno se n'è accorto. Mi spiace, però io sono una persona di fede, quindi devo rimediare. Ecco a lei. E gli passa la pergamena. Volete fare qualcosa? Chiunque di che ci sia nel piano di sotto. Una persona di fede? Ora? Alza un sopracciglio, tipo... ma racconta giusta mica questa. Mentre Lieto è occupato a... cioè, si è concentrato su Ora, Mif cerca di fare un piccolo buchetto alla tazza fatta di cereali. Sì, tipo... Sì. Adone dice... No. Controlliamo Ora? Poi torniamo sull'argomento. Vedi Mif che è, in realtà è concentrata con la tazza di dietro e nel mentre ti annuisce fa... Vabbè. Adone va di là un attimo a controllare cosa sta facendo Ora col vescovo. Gli sta passando una pergamena e il vescovo la prende. Ok. Buongiorno Ora. Ciao. Posso leggerla anch'io, quella? Tu sei in un'altra stanza? No! No, voglio seguire io. Ah, ok. Sono venuto anch'io. Ok. Immagino non ci siano problemi. Il vescovo la srotola e dice... È uno dei canti. In realtà la messa sarebbe un pochino più... strutturata. Dovremmo leggere le scritture, poi fare i canti, poi altre scritture e così via. Che palle! Leggi quella cazzo di... pergamena e basta. Come mai questo interesse? Nessun motivo in particolare, ma sono sicuro che ai nostri amici interessi. E guarda Mifadone lieto. Okay. Adone vorrebbe provare a dare una letta alla pergamena. Se gli sembra di notare qualcosa di particolare, perché questa cosa non ci credo mai che è una cosa normale, quindi sono tipo lì, vabbè, cerchiamo un attimo di capirci qualcosa. Allora, vuoi guardare, dimmi cosa vuoi fare, cioè guardi la pergamena? Sì, gli chiedo, cioè, se proprio dico al vescovo, devo leggerla. Sì, ok, allora non serve, la leggo direttamente, a mente, non la leggo ad alta voce. Ok. Io faccio la solita cosa sopra la spalla di Adone. Il linguaggio in cui è scritto è una versione arcaica della lingua di Scirocco, quindi Adone non ci capisce tantissimo, Lieto capisce una parola sì e una no. Basto comprendere. No, ho detto la spell di D&D, porca troia, come si chiama? È Britolk con gli esseri violenti, eh? Non puoi usarlo sugli oggetti. Davvero? Sì. Non, cioè, non... Ah, cazzo! Non è D&D che puoi parlare con la sedia. No. No, vabbè, non era quello il senso, ma non posso giustamente imparare altri linguaggi. No, non è quello dei linguaggi. Merda. Sì. A livello magico percepisco qualcosa? Mi dovete fare un roll tutti quelli che vogliono percepirlo. Yeah. Sì. Si rolla! Arcano. Si rolla. 10! Puoi tirarne un altro. 7. 5. Ah, cazzo. No, Adone è andato over. Sì. Allora. 5 la... più 8. Okay. Vabbè, pensavo di dirvela in base al risultato, però qualcuno ha fatto un numero altissimo, quindi dico tutto ad Adone. E credo tu abbia fatto 21. Ho fatto 10 più 7 più 6. Meno 1, quindi 22. Sì. E la prima cosa che noti è che questa pergamena è stata scritta a mano, cioè si vede che non è stata usata una magia o un altro strumento per scriverla. E che la calligrafia della persona è tremolante, incerta. Mm. Hai fatto un numero così alto che ti vado anche oltre. Ci sono due motivi per cui la calligrafia può essere di questo tipo. Il primo è che la persona non sa scrivere, cioè è la prima volta che prende in mano il pennino. Oppure che la persona è vecchia e ha i tremori dovuti al Parkinson o comunque a una malattia che ora non si conosce. Ho la pistola puntata alla tempia. Ah, esatto, volendo anche una cosa del genere. L'inchiostro con cui è scritta è un inchiostro normale, cioè generic ink. La carta su cui è scritta è una pergamena originale di un'epoca antica, quindi è super invecchiata, ma è anche resistente. Non contiene forme di magia attive, cioè non c'è una spell che la puoi leggere e castare, tuttavia è come se tra i filamenti della pergamena fosse rimasta una traccia magica, ok? Come se fosse stata esposta per lungo tempo a una forma di magia. E quindi immagina come se un vestito rimane in una stanza piena di fumatori, quando lo porti fuori puzza di fumo, anche dopo un po', qui è una cosa del genere. È il paragone che mi viene in mente. Per il resto non c'è nulla di magico, di tradizionale, nel senso tradizionale. A questo punto Adone dice a Rob: dov'è che l'hai trovata di nuovo? Era tra le robe del vescovo. Ok. Non farà saltare in aria la chiesa, vero ora? No, è tra le, cioè, è le sue robe che legge per farla. E indica uno dei buchi che ha formato ora. Non è che non ci fidiamo, però il vescovo, che è un pochino più risoluto, dice: leggo spesso le sacre scritture e i canti collegati, però non è mai successo niente di pericoloso. Non se metto... lei è tranquillo, la chiesa è la sua. Sì, non metto in dubbio le sue capacità e che conosco ora. Se vi interessa, però... posso provare a leggerla? Sì. Perché no? Sembra che questo canto interessi la nostra amica. Al mio benestare. Servirebbe il sottofondo, ma non ci voglio ricercare la canzone, quindi vado. Nibel, se vuoi, può essere il momento in cui scendi. Uh-huh. Se ti sembra coerente. Cioè, senti la canzone senza contesto. Ho finito di lavarmi, mi sono cambiato. Meno male Nibel scende nudo. Sì, sì. Bagnato anche lui. Go. I vestiti sono molto simili in realtà, più che altro invece di avere la maglietta che ha di solito sotto la giacca, ha una sorta di camicia da lavoro molto usata da molto tempo, cioè è pulita però è usata da molto tempo. Scende giù, non ha il cappellino in testa. C'ha i capelli che sono asciugati un po' a cazzo di cane. è sempre... La doccia ha migliorato la situazione, però sicuramente non sta nella migliore, diciamo, aspetto fisico. Non che ci sia mai stato, però sicuramente adesso sta peggio del solito. E mi guardo attorno, vedo dove sono gli altri. Prima di arrivare, senti, quindi mentre stai ancora scendendo le scale, questa cosa la faccio a cappella, non c'è neanche il bot musicale. Sol in evicti, lex in fabilis, aus terra nobilis, lux mirabilis, ex is divinis, hoc sine pteris, caeres caractis, anas coronatis, sol in evicti. Lex in fabilis, os humux eris, scotos panectis, aus crisum egis, fosto ielosi, caeres caractis, sanas coronatis. Nibel strabuzza un po' gli occhi, che ogni volta, cioè, come chi ha mai avuto una sbronza il giorno dopo sa benissimo che l'ultima cosa che vuoi è sentirti dei canti ecclesiastici. Gregoriani, vero Ica? Gregoriani. Quindi è lì col mal di testa che cerca di allontanarsi sempre di più dalla fonte del suono. Gli altri siete tutti ammassati verso il ora. Sì. Okay. Tutti dietro di lui come un gregge smarrito. Okay. Riguardo. Mi giro, vado verso la macchina per fare colazione. Vado alla macchina per fare colazione. Com'è che funziona la macchina? Tipo, cioè, cosa deve fare un cristiano per aver da mangiare? Adesso funziona meglio! Senti una voce dall'altra stanza. Normalmente metti un manapenny e pensi intensamente a quello che vuoi da mangiare e ci sono delle manopole, diciamo, per regolare il tipo di cosa che vuoi produrre. Mm-hmm. Era già stata caricata, come funziona? Sì, cioè, devo mettere il manapenny lo stesso. No, il vescovo l'ha caricato tutte le mattine con i soldi delle donazioni. Ah, ok. Allora, mi metto lì, vado sulla macchina, mi do una pacca, tipo come se stessi dando la pacca tipo a uno che deve andare a lavorare. Penso... Cioè, non è che pensa in realtà. Esegue. È tipo un pensiero che gli arriva alla testa, un ricordo. Probabilmente di anni fa, però ormai sta andando con l'autopilota in questo momento. E pensa, voglio una fetta di Busaka. Quindi la macchina penso è un piatto del XVI secolo, quindi dovrebbe esistere. Grazie alle modifiche di Lieto, ora la macchina fa quello che vuoi, cioè proprio divertiti. Ok. Allora prendo la mia bella fetta di Busaka con un bicchiere di latte fresco. E mi sfoglia con la panna. Il bicchiere viene di materiale commestibile. Ok, vabbè, lui tanto è fuso, pensa che sia latte. Sta lì, guarda la Busaka, guarda il bicchiere. Gli ricorda le colazioni di quando era più giovane. Comincia a mangiarsi la sua Busaka guardando nel vuoto. Mentre la canzone gli martella nella testa. E voi cosa volete fare? Dopo questo canto è successo qualcosa? Cioè voglio vedere Ora, la reazione di Ora. Qual è? Esatto. Nessuna, sta ascoltando. Esatto. Guarda più voi che il vescovo, che il sacerdote. Ora più sussurro a Mif e dico: andiamo via? Vuoi rimanere ad ascoltare? Tipo, mi fa, cioè, fa tipo, alza leggermente le spalle come per dire non ne ho la minima idea, e poi si gira e fa: era questo il canto o ci sono più? Era questo. Che Strano, è interessante. Cos'è che vuol dire? Non ho più pallida idea. Credo chiedersi chi è che a me. Risponde il vescovo? È ora esatto. Che risponde. E il vescovo aggiunge, credo chiedesse a me. Il testo di queste cose in genere non ha molto senso. Descrive la luce, il sole. Il testo originale è così antico che si è perso e questa probabilmente è una rivisitazione di epoca successiva. Senza significato. Interessante, e poi si gira verso Ora con un sopracciglio alzato per dire che perché è la cosa che leggevo per lanciare la magia, è quella che faceva i buchi. Sì, però devi la farlo legge... mentre hai il manapenny di Bruzurk in mano. Biff guarda il vescovo, no, poi guarda Ora e fa: ora ne hai un altro? È l'ultimo. È l'ultimo. Beh. Allora, io ieri sono stata in questo posto dove ho avuto modo di incontrare una persona e abbiamo riflettuto sull'effettiva del perché questi manapenni rispondono a certe persone e certe no. E siamo arrivati alla conclusione che dipende forse dal tipo di legame e esposizione che hai con la centrale, le varie centrali. Sono mai stata a Bruzurk. Tu non sei mai stata a Bruzurk. Tipo mi fa. Questa cosa l'avevamo già appurata in un certo senso. Però quadra benissimo, nel senso, cioè... ci deve essere sicuramente uno step in più, però quadra veramente veramente bene. Se il manapenny nel vescovo funziona, magari, non lo so, mi fa che mette un po' il broncio e fa: se no perché dovrebbe funzionare con Nibel? Nibel è sempre stato esposto, queste cose era centrale, funziona. Il vescovo si schiarisce la voce e dice: e se provassi io? Appunto, sì, infatti volevo che il manapenne lo usasse lei. Lei si ricorda del buco, vero? Sì, infatti. Vediamo cosa cambia. Okay. Quindi wow. La devo... wow, problema suo. La devo rileggere tutta? La devo cantare tutta? Penso di sì, non lo so. Di solito... ah, ok. Dimmi. Lascia andare. No, lascia andare. Vai. Hai il malapenna in mano. Quando finisce, cioè quando l'ha letta, da il malapenna, senza che lui faccia nessun movimento, gli si alza dalla mano, cioè inizia a fluttuare pochi centimetri sopra la mano, esplode, come avete già visto fare, e... come se fosse un portale dal quale esce un serpente, viene fuori questa spirale di luce che lo avvolge completamente, e questa cosa spiraleggiante, il vescovo si spaventa e la indirizza in una direzione a caso, la scaccia, e stavolta il buco che fa non è un buchino, ma è una voragine che buca completamente il lato della parete ed esce fuori. Il vescovo ha gli occhi spalancati. Ora è felicissima. Anche Biff! Non è che guarda così il buco, perché sapeva che era quello che sarebbe successo, però... effettivamente lo avevamo detto. Eureka! Era diverso dal mio, eh. Eh sì, era diverso. Vedi, quindi l'esposizione conta. Sicuramente l'esposizione conta. Che cosa ho appena fatto? Però... un buco nel muro, sembrerebbe. Fermi. La centrale di... l'esposizione alla centrale da cui vengono prodotti i manapenny? Penso che c'entri col fatto che... No, no. A questo punto il dentro quella centrale ci deve essere l'avatar di Yelos, I guess. Infatti, quindi più collegato, diciamo, all'esposizione dell'avatar più che della centrale. E della credenza della magia. Persona, e quindi... secondo me è esatto, della magia. Un po' come la magia attecchisce anche sugli animali, può farlo anche su noi persone, cioè non è che cambia. Di conseguenza, effettivamente, più forte è il legame e indica il vescovo, più forte, secondo me, sarà l'incantesimo. Su Nibel era forte... adesso, l'incantesimo che ha fatto Nibel e quello di Patroclus erano uguali o quello di Patroclus era più forte? Era più forte. Era più forte. Molto più ampio. E fa, quando sono andata in Gulak e c'era l'ex rettore della centrale, era molto più grande di quello di Nibel. Però comunque la connessione c'è. L'aveva castato anche Kronos, tra l'altro. È vero, l'aveva castato anche Kronos. Aveva ribaltato un treno. E quindi, insomma, sì, cioè, penso che comunque devi avere un legame con quel tipo di magia. Poi Kronos era più simile a quello di Nibel. Sapevamo effettivamente che la sua divinità era stata dimenticata a questo punto. Bianice, io fra le poche monete che mi rimangono, me ne rimane una di Falchena? Sì. Ok. Vedete che, Adone tira fuori una moneta, quella di Falchena, e si rigira fra le mani. Poi dice, non credo che serva fare un altro esperimento. Sapresti la formula per attivarlo? Yeah. Ora è fully committed. Aspetta, adesso vedi che Adone si pensa un attimo e tira fuori il suo diario. Fammici un attimo pensare. E vedi che inizia a sfogliare delle cose. Nel mentre che sfoglia, io devo andare in bagno, raga. Scusa. Aspetto. Canon, evento canon, mi fa cagare. Dice, scusate, vado a incipriarmi il naso. Dai, dove cazzo l'ho messa sta cosa? No! No, aspetta, l'ho messa da un'altra parte, mannaggia. Dove l'ho segnata? Perché... fermi, non posso fare una figura di merda. Era... puoi, non devi farla. Non ho capito cosa hai detto, quindi ti ignorerò. Puoi fare la figura di merda, non la devi fare. Mi dici come si scrive Plestaia, Pelstaia, che ogni volta lo sbaglio? P-E-L-S-T-A-Y-A. P-P-L-E? S-T-A. Sì, Y-A. Sì. Plestaia. Pelstaia. Ah, Pelstaia. Sì. Ce l'ho. Ho la formula. Aspettiamo Sara. Sì, aspettiamo Sara. Io intanto mi sto aprendo le carte dei Pokémon. Vabbè, il pacchettamento epico è incredibile. Non ho trovato un cazzo di niente. Niente sbusto. No, no, sbusto sì, ma... l'hai più sentito il fila? No, mi ha scritto qualcosa, ma no. Non c'hai aggiornamenti interessanti sulla situazione filistica? Ah, no, non ne ho per adesso. Mi devo preoccupare? A questo punto si sposeranno, a breve. Cioè... Ma sempre la stessa ragazzina? No, no, no. L'ex? No. Forse attenzione, è c'è una terza persona. No, ce ne sono 40 nella vita del fila. Ah, allora, certo, però per me, cioè, 1, 2, 3. Sì, vabbè. Le altre le ignoro, perché... vita più difficile, c'hai ragione. No, per adesso no. No, vabbè, lei è una tipa che starebbe bene su Criminal Minds. Gotica? Non così delle persone non binary. No, è la malattia mentale, dicevo io. Non parlare così delle persone non binary. Mamma mia, l'hai ragazzi, detto, non... Non l'hai detto, non l'ho detto io. Scusa. Faccio so. Ridere, hai riso, quindi... Certo che ho riso. Sono una brutta persona per averlo detto e voi per aver riso. Ora io direi che la finiamo in patta sta serata. No, a posto così, dai. Fammi ridere un po'. No, perché io e Ika stavamo pensando l'altro giorno di fare una bella scommessa su chi sarà il primo del nostro giro di amici ad avere un figlio. Il secondo, perché il caro Isika ha già deliberato, ecco. Isika ha un figlio? Lo sta per nascere. Isika, nel caso te lo stessi chiedendo, è il più piccolo del giro di amici. Infatti, ma poi mi viene anche a dire una cosa, la Nikki non conta? No, non la... Sì, ok, ci sarebbe la Nikki, è vero. Però... Ma la Nikki è un caso speciale. La Nikki la considero... Esatto, cioè... Ci sono, quando volete. Okay. Il dottor Adone ha trovato... Adone si ferma un attimo, legge un appunto, richiude il diario, lo mette via e dice: ok, solo formula, ma questa cosa la facciamo fuori. È troppo pericoloso. Fuori dove possono vedere tutti? Fuori dove... No, Mif, questa è questa magia, se funziona, crea un uragano. Distruggiamo la chiesa. Allora non conviene andare semplicemente fuori dalla chiesa, conviene andare fuori dalla città. Farlo più tardi, se volete. Cioè, dopo che facciamo quella cosa che ti ho detto. Va bene. Sì, rimette in tasca la moneta. Me la leggi la frase? La dice ora? No, io Irl. Te lo sto chiedendo. Scusami. Per vedere se è giusta. Anemoiton Pelstaia. Grazie di avermela letta. Sento che ho fatto male, no, perché? No, volevo sapere se era giusta o no. Ah, ok. Ed è giusta? Non me lo dici? Perfetto. Altrimenti sarebbe... Allora, se è sbagliata, sei stronzo tu, però. Perché questa l'ho copiata da quello che mi hai scritto. Non dico niente. Vabbè. Ok. Il vescovo, ovviamente, è dell'idea che lui non vi seguirà. No. Ha avuto abbastanza emozioni per oggi e non sono nemmeno le 8 di mattino. Per favore, sì. Andatevene e tornate il più tardi possibile. Facciamo un attimo una cosa in camera, vescovo, e poi prometto che ce ne andiamo. E mi giro verso Mif. Onestamente, ci resta male per il vescovo. Cioè, proprio è una delle persone a cui non desidera alcun male. Quindi, l'unica persona. E dico, come dici, non lo so, ci resta un po' malino. Tipo. Adone gli dà ragione, perché porca troia. Però a questo punto Adone va per andare su per le scale. Mif saluta brevemente gli altri e gli fa sapere: state distanti dalla camera, casterò un neuromancy. Vado a farmi un giro io. Vai da qualche parte in particolare? Chiede ora. No, in realtà era per sgranchirmi le gambe, se vuoi venire. Immagino ci sia una biblioteca pubblica in questo posto. Non sono di qua, Il vescovo, capendo che non stavi parlando con lei, aggiunge: c'è la biblioteca della Zenithauster. E allora? Nel dipartimento andrò di ottica. Grazie. E ci voglio venire anch'io! Sentite Ronny urlare dal piano di sopra. Sì, e niente, io andrò, vado lì. Se vuoi venire anche tu ora, beh, sei la benvenuta, I guess. Arrivo. Venga la cosa, la rimetta a posto, vescovo. Sacerdote, quello che cazzo è. Padre. Nibel. Nibel sta prendendo la sua terza busaca dalla macchinetta. Si risiede di nuovo e sta mangiando. Mentre guarda nel vuoto. Non so se qualcuno gli rivolge la parola. Io vorrei, ma sono andato già su dalle scale. Sono lì a mangiare. Mip che sbuca dalle scale fa: posso? Vuoi che... Nibel! Al cuore. Scusate. Fa: Nibel, vuoi che facciamo quello per cui ti sei offerto? Penso di riuscire a gestire due persone. Questo mi farò passare un mal di testa volentieri. Vedremo. Fammi finire la busaca, per favore. Anche oggi vi siete separati. Visto che è molto più veloce, faccio la parte di lieto fino a un certo punto. Scusaci, Bianici, non so che dire. Siamo veramente terribili. Ci sta. Allo sbando. Domanda. Come la mia cartina geografica che prima o poi vi manderò, vi scannerizzerò. Ci sono due strade per arrivare alla Zenithauster. La prima è passare per l'Acropoli, per il centro città, che è un po' più lunga ma meno sconnessa. E l'altra è costeggiare il fiume, che è una strada brutta, perché devi passare per i vicoletti infestati a malavita e poi per il fiume, che è un postaccio. E quale delle due vuoi prendere? E quello per il centro città. Proprio... Sono molto contento di questa tua scelta. Due d'ora camminate tranquillamente. Il centro città è tutt'altro che interessante. Ok? Cioè, l'avete già visto un paio di volte. E quanto voglio essere bastardo? No, come sempre. Di mattina mi sembra un po' presto per essere così tanto bastardo anche per i miei standard. Per arrivare alla Zenith tagli per la piazza centrale, quella dove l'altra volta avete trovato ho tirato giù il tizio, sì, esatto. Noti che la croce è stata esposta all'acqua tutta la serata e quindi è un po' rigonfia d'acqua, inclinata e marcente. Intorno alla croce ci sono dei ratti che stanno spiluccando qualunque cosa ci sia per terra. Da un altro lato della piazza, ora lo nota e ti fa segno se non lo noti subito, c'è uno dei soldati della legione, quelli vestiti rosso e giallo, che sta tenendo d'occhio la croce, però dalla distanza. La gente normale non ci farebbe caso, ora ci ha fatto caso subito. Ok. Facciamo finta di niente? Facciamo assolutamente finta di niente. Ora fischietta se sei fischiettare. E... quindi ignorate completamente la croce e gli passate anche lontano, immagino. Sì, sì, sì, proprio il più lontano possibile. Cioè, se c'è un muro dal bordo dietro, ci passa bello lontano. Perfetto. Circumnavigate la piazza se necessario e quindi la cosa va relativamente bene, cioè non è così strano. Però avendo fatto il detour per stare lontani dalla croce, passate davanti alla Santa Chiesa di Apeira e ora si ferma un minuto e dice: cavolo, è un po' che siamo in questa città, non l'avevo ancora notata. Vuoi entrare un attimo? Se non è un problema, sì, non vorrei dare nell'occhio, però. e vedo se c'è tipo un ingresso laterale, una porticina, qualcosa di più. Trovi in effetti, girandoci un pochino intorno, un ingresso laterale, ma non per cioè non è un ingresso privato, è solo una porticina per entrare nella navata. Ok, direi che possiamo entrare da qua ora. Te la indico. Non so se Lieto è mai stato in una chiesa della Santa Chiesa. Nope. Perfetto. È una chiesa cristiana, cioè proprio one on one è equivalente. Al posto delle croci e delle immagini di Cristo ci sono dei triangoli. È più musulmano nel senso... No, sono cazzaro. È più una chiesa ortodossa. Okay. Nel senso okay. che di quell'ortodossismo... del 400 in cui non c'erano effigi di Dio, cioè non si rappresenta mai né Cristo né Dio, e uh-huh. i santi sì, i santi certo, nella... sì, esatto, nella chiesa i santi sarebbero le persone che hanno conosciuto Dio e i suoi avatar sono rappresentabilissimi. Avatar non è un termine corretto in questo contesto, è per capirci io e te. Sì, sì, sì, sì, sì, loro non sapevano che esattamente. Erano. Loro non sanno adesso che sono avatar. Esattamente, i discendenti di Dio, i sì. nuovi profeti. E quindi ci sono delle vetrate bellissime, sfarzosissime, con questa cosa qua. I due colori principali sono l'azzurrino, che ritorna nei triangoli, e l'oro, che circonda tutto il resto. Ora, entrandosi in ginocchia, fa un segno, l'equivalente, grazie mille, quello volevo dire. Chiese iconoclaste si inginocchia e fa un segno che è l'equivalente del segno della croce e sta pregando al dio mentre cioè noti che c'è qualcosa di quirky nel senso che lei sta pregando con mani incrociate in ginocchio però si sta guardando intorno. Ok, e succede qualcosa? C'è qualcuno che vedo? Ci sono delle persone, è molto più popolata della chiesa di Yelos, dove non c'è un cane. Sì. Quindi ci sono tantissimi fedeli, tendenzialmente anziani, cioè gente a 60-70 anni, sono la fauna principale. Però ci sono anche giovani, donne incinta, insomma c'è un po' di tutto. E il sacerdote della chiesa, che qua sì che è un vescovo, ha dei paramenti sfarzosissimi anche lui, bianchi, proprio lucidissimi, con questi simboli triangolari che ricorrono un po' ovunque. E al momento è seduto dietro il tabernacolo e sta in maniera non proprio cristianissima leggendo il giornale. Ok. È il chill. Fare qualcosa. Ma mi sembra bruttino disturbare ora che prega, però la vedo che si guarda intorno, quindi tipo, ma cerchi qualcuno? Cosa? Sì. Posso aiutare? Dai una descrizione, magari. Volevo capire chi è il vescovo e vedere se ci sono soldati dell'impero. Non mi sembra ce ne siano. E io direi che il vescovo è lui, o con la testa, indico lui che legge il giornale. Oh oh, e lei indica nella direzione opposta, siamo. Vedi, mentre lei dice sta cosa qua, che sta entrando nella chiesa un uomo vestito con la corazza, cioè corazzato, gialla e oro e nero. Se ti dice okay. qualcosa bene, se non ti dice qualcosa io non ti do altre informazioni. E... è vestito d'oro e nero? No, aspetta, dimmi... Ha una corazza oro e nero. Per il resto non noti altri dettagli rilevanti. Ok, è un soldato di quelli che avevo incontrato due giorni prima, il giorno prima? No, quelli sono gialli e rossi. Cioè, gialli? Sì. Ok. Vabbè, mi levo dal cazzo. Non so se sono qui per me, ma nel caso li eviterei volentieri. E chi dovrebbero cercare te? Non ne ho idea, però se ti ricordi sono scappata perché volevano uccidermi. In effetti non ho fatto niente di male, però. Vabbè. Già. E Sì, no, comunque non mi sembra la giornata da intafinarsi in questo genere di cose. Quindi, se vuoi andare, per me non c'è problema. Sì, andiamo diretti alla biblioteca, se ti interessa. Sì, sì, sì. Ok, ti fermo un attimo mentre che procedete, eccetera, e riprendo loro. Descrivetemi cosa state facendo. Adone, anche se è vestito per uscire, a questo punto si stende sul letto, non si mette sotto le coperte, ma si stende sopra il letto e dice... Quindi userai la tua magia come al solito e speriamo che funzioni. Ah sì, ho detto anche a Nibel di salire e voleva... era curioso anche lui. Di assistere? Di essere questa. E sei mutato, sei mutato. Sono mutato. Detto, sono qua, dicevo. Cioè, praticamente Nibel che ha spostato le robe che coprivano il buco nel muro e dall'altra parte della stanza che mi parla dal buco del muro. Ah, pensavo ti mettessi sul mio letto. È necessario, però... se no posso stare sul mio. No, no, non è necessario. Master, è necessario, no? Un range gigantesco. E mi fa... sì, è giusto perché, insomma, se hai dei sintomi o altro che ti possa... Insomma, se ti senti male, almeno avrei potuto vederti. Qua faccio un po' più di fatica. Sei tu l'esperta, dimmi tu. Per me non è un problema. Viene Adone si alza e dice, vado io nell'altra stanza. Ok, ci spostiamo tutti nel... in effetti. Esatto, infatti Mif prende i suoi tomi, prende le cose per scrivere, si siede su quello di Ora, che immagino tipo sia in mezzo, non so perché mi sono sempre immaginata, che visto che quello alla finestra è in mezzo tra quello di Nibel e di Coso, sì, che sono a sinistra e a destra. Esatto, esatto, esatto, esatto, me lo immaginavo bene. Mif si siede su quello di Ora. Adone si stende appunto su quello di Lieto dicendo, spero non mi dispiace a Lieto. A proposito, quanto mana ho adesso? Come hai dormito ieri? Perfettamente, no? No, cioè sì, sì, ho dormito. Mangiare hai mangiato? Davvero? Quanto ore hai dormito? Boh, a che ora è tornata a casa Mif? Sarà tornata per mezzanotte. Sì, direi che sei full tutto, allora cioè perfectly full. Ormai la chiesa è pure un punto di ritrovo, quindi hai il massimo di vita e mana. Oddio, quant'è il mio massimo di vita e mana? È veramente facile perché c'è scritto. 4, 8, 12 più... Ha terminato ogni cosa, tira sì, tutti 25. I blood die sì, da un wizard. Ok, di vita. Il mana è 25 più 5, credo, se mi ricordo bene le passive. No, aspetta. Guadagni mana massimo attuale pari al risultato ottenuto. Ah no, questi vanno proprio rollati. E niente, tirali tutti. Tieni e... mana pari alla tua M. Quindi ho 3 mana di base. Più 3 di 4. Più 3 di 4. Ok, scusate, adesso tiro. 3 ai 11. Ma perché ti viene 25? Mi sembra un po' altino. Perché dovrei avere dei pezzi, tipo. Dei pezzi? Dei pezzi di roba. Leather skin, vediamo un attimo. No, no, no. Ah, leather skin ti dà più 2. 12 più 1, 13. 14, 15. Mi manca comunque 10 punti. What the fuck, I don't know, man, me li hai messi tu. Ah, perché c'hai un 6 qua per nessun motivo in particolare. Sì, c'avevi un 6 di troppo, ora mi sa che mi torna. Ok. E più i grimori ricaricati. Sì, sì, sì. Ok. Io secondo te recupero vita oppure ho dormito troppo di bene? Secondo me, cioè, recuperare recuperi. Io ti farei rollare. Siamo 24 invece di 38. Cioè, sono dietro di 14. Sì, sì, vediamo quanto rolli. Hai 2 di 8 più 1 di 12. 2 di... roll 2 di 8 più... 2 di 8 più 1 di 12? Sì. Il totale più 10. Roll 20? È anche vero che se ti faccio dormire poi io tecnicamente con nei romanzi ti faccio ritirare i blood dice. Tecnicamente sono cappato. Cioè se, con coso si resetta, è come se rifacessi questi roll. Sì sì, ho fatto 23, sono sì. Più 33, sono, avevo 23, quindi sono cappato. Sono Marco sì, cappato. Sì, scusami. Ah, ok, sì, hai 33... No, il tuo cap vero è 38, quindi hai 33 su 33. Cosa mi sono spiegato? In che senso 33 su 33? Hai 33 di vita massima e 33 di vita attuale. 38 è il massimo matematico, cioè se avessi rollato il massimo avresti 38. Non sbaglio. Ah, ok. Sì. Sì. Però io avevo già 24 prima. Sì, no, quello lì si cancella. Ah, diventano PV temporanei, ma se vai oltre li cancelli e basta. Ah, e okay. La differenza tra quello che hai rollato e quello lì è diventano PV temporanei. Chiaro. Ok. Vai, ho bisogno che Mif mi dica cosa succede. Ok, beh, Mif aspetta un attimo che vi mettiate comodi e poi inizierò a castare un neuromanzio. Sì, fallisco il tiro eventualmente. Potete scegliere di fallire? Sì, lo scelgo. Perfetto. Vi addormentate. Di base, ognuno di voi ha il suo sogno di riferimento che fa. E quindi la situazione standard è quella. Ora, Mif, quando hai un aeromancy attivo, o li fai stare nello stesso sogno, oppure li vedi uno alla volta. Però, di base, io ti descrivo una situazione. Cioè, una per Nibel e una per Adone. La situazione di Adone è quella che avete, tranne Mif, visto tutti. O meglio, tranne Mif, ieri sera. Ed è... un luogo avvolto dalla nebbia, Adone molto piccolo che cammina in questo luogo e dopo un po' si imbatte in una lapide. Questo okay. È il suo incipit. Il piano di Mif, aspetta, perché vorrei tenere tipo Nibel on hold, nel senso io prendo Nibel e lo porto da Adone. Che okay. Intanto cioè, la sento come presenza ed è con me, ok? Quindi è come se, non dico vivesse il sogno di Adone, ma lo riuscisse a guardare tranquillamente. E poi, una volta che abbiamo finito Adone, vado da Nibel, o viceversa. Ditemi voi ragazzi, cioè per me è iniziare con qualcuno o qualcun altro. Io posso anche stare zitto per tutta la sessione per quello che mi riguarda. Ah no, dai. C'ho il naso tappato e sono fuso, quindi va bene. Ah, ok, ma è per questo che ti vediamo così mojo, così. Sì, no, tranquillo. Ah, ok. No, ti giuro mi stavo preoccupando, perché dici, ma stai bene? Cioè, è successo qualcosa? No, c'ho il naso tappato, c'ho un po' sonno, però vi sto ascoltando. Non è invivibile la situazione, però... L'importante è che è solo malessere fisico, non sta impazzendo, non puoi ucciderti. Non ho problemi. Come mai dici questa frase? Nessun motivo in particolare. Nessun motivo in particolare, ragazzi. Oggi è stata una giornata così normale. Esatto. Mamma mia. Dicevo. Ok, iniziamo. Quindi rivolge verso Nibel, esatto, si rivolge verso Nibel e gli fa... Cerca di non intervenire nel sogno di Adone per il semplice fatto che non voglio che succeda come l'altra volta, ovvero che ci elettrizziamo tutti. Finché mi fai riposare, per me va bene qualsiasi cosa. Ottimo, e allora andiamo da Adone. Ti ho già descritto la scena. Ma prima di addormentarmi guardo di lato, vedo la bottiglia di liquore, ci penso un attimo, però poi mi rigiro e faccio... Dai. Sì. Sarà lì a rivedere. Esatto. Vai. Mif è la solita presenza che ormai Adone conosce nei suoi sogni, almeno dall'ultima volta, e quindi è... la presenza è silenziosa, cioè per ora non ti sta parlando, però sai che sei in compagnia. Ok. Sulla lapide c'è scritto qualcosa? Essendo il sogno di Adone non è in grado di leggerla. È vero che sono un bambino? Ok. Sono tipo dei glifi quello che vedi. Ok. Che ogni volta che li guardi sono diversi, tra l'altro. Sì, a questo punto Adone tira avanti come aveva fatto nel sogno. Dopo pochi passi ti imbatti in una persona che rispetto a te è gigantesca, bianchissima, marmorea. A questo... l'altra volta avevo riconosciuto che fosse mia madre, giusto? Sì. Questa volta provo a guardarla, effettivamente, osservarla. Vedo per la prima volta come è fatta mia mamma, sostanzialmente. Circa. O meno. Avvicinandoti, guardandola direttamente in faccia, noti che la donna ha i capelli media lunghezza, sul rosso, cioè tra il castano e il rosso, e... le labbra sono grigie, nel senso proprio devoid of color, così come tutta la pelle, tutta la complexion che è completamente bianca. Ha gli occhi chiusi, le ciglia molto lunghe, e il volto è magro, fino. A differenza delle altre 64 promesse che abbiamo conosciuto, ha un seno normale. Vabbè. Sì, ha un seno di media taglia. E i vestiti che indossa contrastano da morire con la sua pelle, perché sono interamente neri, e avrebbe un cappuccio che però è tirato giù, nero anch'esso. Ok. Adone si sofferma un attimino a osservarla, poi sai cosa? Provo a toccarle la mano, a stringerle la mano, tipo. La tua mano è molto più piccola della sua, quindi con tutta la mano riesci a prendere due dita. Noti che ti somiglia di faccia, tra l'altro. Ricorda vagamente l'immagine dello specchio. Ok. Ed è gelida, quando la tocchi è veramente freddissima. Ok, non si anima né niente cose. E a questo punto Adone lascia la mano e tira dritto. Vuole tornare nel luogo in cui era scappato, sostanzialmente. Cammini verso il centro del cimitero. I tuoi passi non fanno rumore perché sono attutiti completamente dalla nebbia. L'odore della nebbia, quel freddo umido, ti inebria. Quasi ti stordisce. Finché a un certo punto non arrivi davanti alla immensa entità metallica, che è molto più grande di tua madre, quindi rispetto a te è colossale, e è molto buio, dovrebbe essere piena notte o comunque tra poco albeggerà, in ogni caso è veramente buio, non vedi nulla, se non che alcune parti di questo oggetto metallico riflettono la luce della luna, insomma, cose del genere. Quindi vedi proprio un outline leggero in alcuni punti. E essendo così buio non vedi nient'altro. Ok, a questo punto vado dalla creatura colossale e la tocco per farla attivare. Appena la tocchi, come è già successo altre volte e ora te lo ricordi, è come se un fluido blu iniziasse a fluire a partire dal punto in cui la stai toccando, e come se fosse il sangue che viene irrorato all'interno delle sue vene, inizia ad animarlo. La luce che emette quel fluido, permette di vedere la figura, che sembra una versione deforme di una statua di metallo, umana, umanoide, due gambe, due braccia, però lunghe come quelle di un orango, nel senso sproporzionatamente lunghe. Ci arriviamo. Tutte le parti del suo corpo sono meccaniche, sono intersecate fra di loro come se fossero i pezzi di un treno, perché quello è il macchinario che hai in mente. E finalmente il fluido lo riempie e illumina il suo volto, la sua testa, che è praticamente una cavità sotto la quale c'è una bocca. La bocca anche quella è meccanica ed è più accennata, non si apre. Il fluido lo riempie lentamente e quando lo ha riempito completamente risenti quella voce robotica, aliena, come se uscisse da un megafono per noi, che ripete delle frasi ai tuoi occhi, alle tue orecchie sconnesse. Il tempo è quasi giunto, il dio meccanico si risveglierà. Il tempo è quasi giunto, il dio meccanico si risveglierà. Ok. E scusami, ripetimi cosa sta facendo il robot. È immobile e si sente questo suono. Ok. Io se stacco la mano, si è acceso, non ormai si spegne. Sì, sta continuando ad andare. Ok, allora io mi si china su di te della serie ti fa. Vuoi che ti porti su? Ok, giusto. Io vedo Mif. La senti. Sì, si palesa. Esatto, okay. Cioè la senti più che altro. E Adone tipo non sa bene dove sei, quindi alza le braccia e dice: sì, la mia idea era di farmi prendere, ma prendimi tu. Mamma mia. Niente, Mif fa mamma. In modo di sollevare, esatto. Adone, becoming no. A god with mama. Mif solleva Adone, senti praticamente una mano sotto di te, ok? Cioè, quindi si fa tanto grande come magari la macchina, solo che non la vedi, la senti e basta, e ti porta ad altezza del volto. Amigdala. Cioè, mano invisibile che ti tira su fino a... Veramente, volta, letteralmente che amigdala. Paura. Sogno in sé non era un cazzo, questo è terrificante. Vabbè, pensiero mio. Sinceramente. Il foro nella testa di questa creatura sembra fatto per te. A questo punto Adone dice... Cioè, non, ripeto, non vede Mif, però dice... Provo ad entrare? Ricordati che questo è il tuo sogno e del tuo regno. Come sempre, puoi decidere tu alla fine quanto spingerti. Se ti tirerai indietro, e questa volta si palesa tutta, quindi si fa vedere a te, io sono qui ad aspettarti. Probabilmente c'è un attimo di paura. Che brutta Mif! No, scherzo. Mif che fa finta di lasciarti cadere. No! Che fa... E Adone si pisce addosso per 4 anni. Esatto. Come la sedia, è la vendetta per la sedia. E... mi piace sempre che Mif è molto equilibrata nelle cose. Cioè, le dai una schicchera e lei ti spara in faccia. È Israele. Torniamo sui binari. Wow. E Adone annuisce a questo punto e prova ad arrampicarsi e entrare nella cavità. Ok. E a questo punto dice: prova a dire anche alla macchina: sono pronto. Riprendosi a boh, non sa nemmeno lui bene cosa. Quando entri dentro l'oggetto, è come se il tuo collo rimanesse incastrato, nonostante sia più piccolo della tua testa. E come se non ci fosse un fondo a questa cosa qua. Come se andasse avanti nell'oscurità per sempre. Tra l'altro tu stai guardando il sogno dai suoi occhi, quindi da qui in poi non vedi più nulla, Mif. A meno che tu non decida di fare qualcosa. e senti questa voce che adesso ti entra veramente nel cervello, nel cranio, martellante, oltre ad assordarti è proprio come se cercasse di sovrascrivere i tuoi pensieri. E dice, sempre con la voce gracchiante eccetera eccetera, che non sto a fare: sei pronto a diventare il nuovo dio, rimane solamente un passaggio, la creazione del culto. Adone dice: e cosa devo fare? Cioè, cerca di chiedersi questa cosa, nonostante cerca di parlare nonostante la voce. La voce ti ignora completamente come sempre. In molti ti hanno preceduto, in pochi hanno raggiunto un successo epocale, e in molti sono stati cancellati e dimenticati dal tempo. Per noi sarà diverso, perché il tuo culto è interamente dentro di te. Adone prova a ripetere e dire: cosa devo fare? Cosa devo fare? Cioè, sta capendo, ma... Senti, cosa sta succedendo poi fuori? Vuoi vedere fuori o...? Io Mif voglio vedere fuori. Cioè, okay. So che Adone è lì dentro, Mif vuole vedere un attimo fuori. La creatura si sta alzando in piedi, lentamente, e allarga le braccia al cielo. Ok, come in una strana preghiera. E tira sul collo, quindi Adone ora è a testa verso il basso, ok, con le gambe in aria. E la creatura continua dicendo: le loro anime sono indissolubilmente legate a te, e niente potrà estrarle, ma dovrai consumarle. Oh mamma. Prego. Adone ha capito a questo punto, e allora anche lui in maniera un po' più insistente dice: va bene, cosa devo fare? Cosa devo fare? Perché spesso da un uomo è nato un dio, e spesso da un diavolo è nato un anticristo, ma questa è la prima volta che un dio nascerà dalla loro fusione. Ok, Teo. Sta cagando pari, nel caso non fosse il palese. Okay, però ti faccio parlare perché mi diverte. Ma non so cosa dire, non so cosa dire. Adone sta facendo 2 più 2, e però ormai non è troppo tardi per tornare indietro. Dice, ripete, lui Adone continua a ripetere: cosa devo fare? Cosa devo fare? Mentre Mif prende appunti voracemente, cioè, perché ricordiamoci che un eroman si puoi anche vedere nel presente fisico. Come fisicamente è impossibile questa cosa, però essendo un sogno succede, è come se venissi flippato, e quindi ora vedi dall'interno del buco, tutto il tuo corpo è dentro il buco, e vedi come se fossi gli occhi della creatura. Quindi vedi le sue braccia gigantesche, vedi che hanno 4 dita per mano, sono meccaniche, ho bisogno di un secondo perché ora sta per arrivare mio papà a salutarmi, quindi gli devo dire buonanotte, non posso interrompermi. Esattamente. conosco i miei chickens. 4 dita meccaniche con tutte le giunture, si sta facendo mattina, il cielo è azzurro terso perfetto, se guardi verso il basso vedi che ci sono una dozzina di persone, che ora rispetto a te, che sei questa gigantesca creatura, sono minuscole, tutte a terra, con la pelle marmorea, quindi sembrano delle statue, però sono persone morte, dissanguate, ed è un cimitero questo, con tutte le lapidi, anzi è un cimitero che è familiare ad Adone, perché è il fottutissimo cimitero di Falchena. Già, e... La creatura con le braccia aperte, vedendo che stai guardando, cioè sentendo che stai guardando verso il basso, dà tipo un colpo di frusta e ti obbliga a guardare verso l'alto. E c'è un cielo enorme, azzurro, bel bianco, monocromatico, perfetto, senza una nuvola, senza niente. ed è come se da un punto del cielo venisse partorita una mano, stavolta con 7 dita, che si sta avvicinando verso i te. 2 pollici, se ti interessa. Uno di qua, uno. Okay. Che si sta avvicinando verso la tua faccia ed è immensa, è molto più grande della cosa meccanica ed è completamente nera. Adone pensa intensamente e dice, cioè il suo pensiero è di far muovere più velocemente la creatura meccanica. Non riesce a far muovere, però c'è una specie di volontà manifesta e la creatura, con la sua voce che ora rimbomba da dietro di te, dice: devi comprendere le anime e poi usarle e poi mangiarle. La mano lo afferra ed è come se piazzasse qualcosa sulla creatura che non vedi subito, e poi noti che la mano sparisce e rimane una catena gigantesca, è sempre colossale, che si attacca al petto della roba meccanica e arriva fino al cielo, dritto fino in cielo. In cima non si capisce dove, perché è il fottutissimo cielo. Non so che idea della cosmogonia ha Adone, però questa cosa è strana. Sì? Cosa vuoi fare? Adone pensa tipo di cercare di raggiungere le catene, cioè vuole tipo muoversi e muovere tutta la creatura su in alto. La catena inizia a salire. Ok. Con la creatura attaccata, che quindi si stacca da terra, e ascende velocissimamente verso il cielo, sopra ogni cosa, finché la terra non rimane che un puntino alle tue spalle. E sei ben oltre i limiti del cielo. E in questa immensa monocromaticità di un blu oltremare uniforme, senti come se ci fossero altre entità come te tutto intorno a te. E non puoi comunicare con loro. Non hai modo di parlare, non hai modo di fare niente con loro. E la voce meccanica ti ripete: le anime. Dovrai consumare le anime, dovrai comprendere le anime, dovrai consumare le anime, dovrai comprendere le anime. Adone chiude un attimo gli occhi e pensa a sua madre, che ormai è diventata statua, e prova a immaginarsi di consumarla. Nella sua visione l'abbraccia da bambino, cioè immagina di abbracciare questa statua, e tipo Adone cresce e la statua diventa sempre più piccola, tipo erosa, fino a che Adone non è adulto all'età che è adesso e della madre non rimane che diventi qualche piccola cosa sola con la macchina, cioè diventa il tuo corpo, un'estensione, cioè non l'estensione ma esattamente il tuo corpo. E davanti a te si palesa uno spettro, un fantasma. Fantasmi, sull'esistenza dei fantasmi ne parliamo un'altra volta, questo è un sogno. Ed è il fantasma di tua madre. Oh damn! Che ti parla, e a differenza della creatura, ti sta ascoltando. Ok, e... mamma? Non pensavo che ti avrei mai rivisto. Potrei dire lo stesso. Mi spiace per quello che è successo. Davvero? Sì. Non è Flame, questo è genuinamente Adone. Ovviamente non era quello che volevo. Volevo darti la vita migliore che potessi avere. E sono stata ingannata o comunque ho fallito nel mio tentativo. Pensi che... sei soddisfatta di dove sono arrivato? Sono soddisfatta del fatto che finalmente hai trovato la tua strada. Non ho molto tempo. A breve questo sogno collasserà. Tu hai già visto un'anima venire consumata. Devi partire da lì. Potrò mai più parlare con te? Se diventerai una divinità, non ci sarà limite al tuo potere. Potrai riportare in vita i morti, potrai fare quello che vuoi. Quindi è questa la mia strada? Diventare un dio? È quella che avrei voluto per te. Capisco. Allora credo che questo è un arrivederci. Fino a quando? Senti come se si stesse spezzando un vetro dietro il quale tutto questo era e ci sono delle crepe. Fino a quando si crepa ulteriormente. Fino a quando non sarai un dio. Si frantuma tutto. Le schegge ti volano addosso. E Adone si sveglia. Adone, vedi, fa... Prendo un attimo respiro e rimane un attimo a fissare il soffitto. Vedi che Mif alza un dito e che nel mentre sta continuando a scrivere, no? Tipo gli ultimi appunti di questo sogno, tra virgolette, che hai fatto. Che hai fatto. E... Poi ti fa molto lentamente, vuoi assistere a quello di Nipe? D'accordo, spero sia... Beh, sicuramente non posso incontrare mia madre nel suo sogno, quindi direi di sì. Vi chiedo solo un secondo per spostare Eddie e poi facciamo l'altra scena. Spostami certo. Tutto. Sesso. Rapidissimamente. Figo? Ok. Sì o no? Sfighissimo! Okay, scusami se forse non l'ho rollato abbastanza bene, mi dispiace. No, sta, andava, andava, era bello, mi piace che hai preso l'iniziativa di controllare il sogno, quello è stato figo, bravissimo. Ok, bene. E, no, quello che ti volevo chiedere è, hai capito a chi si riferisce? Ma io ho capito che si riferiva... No, aspetta, quella dell'anima consumata? Sì. Merda, ho realizzato adesso che io subito ho pensato ad Arva. Neanche però mi sbaglio. Cazzo. No, no, aspetta. Allora, ho già visto un'anima venire consumata. Allora. Aggiungo in game. Okay, non nella cazzo di backstory di Adone o nei momenti che non abbiamo giocato. In un momento in cui abbiamo giocato hai visto un'anima venire consumata. Non ti dico quale, ok? Però vedi te. Cioè, posso chiederti un attimo, è faithless o faithful? Non te lo dico. No, merda. Perché io ho dato... Merda. Che altro, secondo me, è l'aggancio che manca ad Adone. Ora devi ricordarti tutta la storia di Adone, quindi ha senso magari raccontarla a qualcuno. E cercare un momento in cui è successa questa cosa. E da lì poi parte la prossima parte della tua questline. Perché io ti dirò, io ho interpretato, ok, devo consumare tutte le anime che ho al mio interno, però quello mi sembra un po' troppo facile. Non ti dico niente, ti ho dato un indizio che secondo me ti può aiutare e non ti voglio dare perfetto. Di più, va bene? Va benissimo, grazie. E prendila anche come cosa da fare se preferisci fuori dal game. Se secondo te non ha senso che Adone si metta da parte a spiegare la sua storia a qualcuno. Cioè, ok, ci sta. Pensaci. Ok. Ci penso. Vedete come farlo. Per me puoi fare anche le intersessioni one on one con Sara, con qualcuno. Cioè, don't fucking care. Eh sì. E bon, basta, ci risposto di sotto. Okay? Vabbè. Ci scusate. Eccoci qua. Ci siamo. Bene, scusate, era un leggerissimo incipit. Ok, ditemi... Io passerei un secondo a fare lieto. Per fare un po' e un po'. Yes. Ok. Con ora, lieto ha superato il ponte, che dopo la notte ieri era ancora fradicio, però camminabile. l'acqua era molto, il livello dell'acqua era molto alto. E siete arrivati nella piazza centrale della Zenith Auster. Uh-huh. Ci sono 6 dipartimenti, una porta per ogni dipartimento. Ti voglio chiedere dove vuoi andare. Dietro vorrebbe cercare dei canti, delle informazioni su Arva a questo punto. Quindi la cosa più vicina a storia che hanno in questo posto. I dipartimenti lo sai quali sono. Archeologia? Non c'è archeologia alla Zenith Auster. Sono mica omosessuali. E magia naturale? C'è magia naturale, ontica, necromanzia, stregoneria, e teurgia e alchimia. E parto da magia naturale, se non devo trovare niente, poi ci spostiamo, I guess. Perfetto. È mattino presto, ci avete messo un'oretta, ma anche meno, arrivare qua. Uh-huh. Quindi sono un po' prima delle 9. Le lezioni stanno per cominciare, quindi tutti gli studenti stanno andando nelle aule adibite e i professori se la prendono con calma perché sono i professori. Giustamente. Ora ti segue, non ha nessuna spinta a fare qualcosa di diverso, è lì per passare il tempo, magari per divertirsi un attimo. E incroci per la terza volta nel giro di 2 giorni una signora con i capelli abbastanza corti, bianchi, un volto relativamente giovane, benché tirato e arcigno, mm-hmm. con dei lunghi guanti che arrivano fino a metà braccio, bianchi, e gli indumenti con i colori del dipartimento di magia naturale, quindi marrone e verde, con dei motivi a forma di funghi, mi viene da dire, intrecciati, e la spilla della Zenith Auster. La signora ti sta osservando, ti chiedo prima cosa vuoi far te e poi... La saluto con un cenno del capo, tipo, è un... non disrespectful, ma neanche... mi sto prostrando, ecco. Non è comune vedere qualcuno visitare così spesso il Dipartimento di Magia Naturale. Sono la sete di conoscenza non termina mai. E sono qua per la biblioteca. Mi sai indicare dov'è per caso? Lei fa uno smirk, cioè appena accennato, e ti dice: cerchi la biblioteca proibita? E probabilmente ha quello che sto cercando. Si chiama proibita, I guess. Contiene dei manuali più interessanti degli altri. Hai sbagliato dipartimento. È in quello di Ontica. Ok. La ringrazio in ogni caso. Fa un cenno di saluto e si avvia verso quella di Ontica a questo punto. Dammi solo un secondo. Ok. Che cosa studi? Magia ontica. Dalla Zenith High fino alla Zenith Auster. Si vede la cazzo di spilla con scritto ZH. Sì. È lucente, è ancora scintillante. Ora tutto questo è silenziosissima. E la signora aggiunge: ti piacerebbe per caso lavorare in questa scuola? Al momento sono impiegato in ricerche personali, però l'invito mi stuzzica in una certa maniera. La signora casta una magia dal terreno, siete dentro l'edificio, quindi mm-hmm. tra i buchi delle mattonelle escono fuori delle ife che formano un foglio. Lei lo prende e te lo passa. E dice: è un contratto. Se ti interessa visitare la centrale di mana di di Apeira. C'è un personaggio che si sta risvoltando nella tomba. Basta una firmetta. E alla vista del contratto, no, tipo... la ringrazio, Quando vorrai potrai visitarla. Sai dove si trova, no? A sud sì, di... Sì, sì, l'ho già vista. Visto. In bocca al lupo con le tue ricerche. Ah, la ringrazio, Arrivederci. La conosci? Domanda ora. Era la direttrice della centrale di questo posto. Ed è così gentile con tutti? È la seconda volta che la vedo ed è la prima volta che mi parla direttamente. I have no fucking clue ora. Comunque direi di no, visto quello che accennava Nibel, mi pare. Sì, non so quanto sia saggio tenere quel foglio. Sì, no, infatti adesso gli diamo fuoco. Biblioteca proibita? Biblioteca proibita. Nel frattempo do fuoco al foglio che mi ha dato la tipa. Vabbè. I romanzi non bruciano. È una cazzata che tornerà utile tra un po'. E niente, riuscite ed entrate nel dipartimento che o è quello a fianco o è quello fra due a fianco, non mi ricordo, dovrei riguardare la cartina. Il dipartimento di magia ontica è diverso da quello di magia naturale perché è nuovo. Mm-hmm. Cioè l'hanno rifatto da zero pochissimi anni fa, tipo 5 anni fa. Le mattonelle sono ancora lucide, proprio appena uscite dalla fabbrica. Credo le fabbrichino. Credo ci sia un tizio che si mette lì a fare le mattonelle. E ogni tot metri c'è un piedistallo che al padre di Lieto dovrebbe essere familiare, con sopra un artefatto dentro delle teche. Ce n'è uno ogni tot metri e rappresentano oggetti di valore che ora guarda avidamente, ma a distanza di sicurezza, man mano che passate. Brava ora. E ci sono dei cartelli che indicano dove si trova la biblioteca. Bisogna andare in fondo al dipartimento e poi salire le scale. Seguo le istruzioni, entro in biblioteca. La sezione proibita è tipo... Arriviamo. Ok. Davanti alle scale c'è tipo un bancone. Hai attraversato un corridoio lunghissimo per arrivarci. Tipo un bancone con un tirocinante, diciamo. Che è lì a fare due crediti facendo da schiavo per l'università. Tutto quell'ag. E vedendo che stai cercando di accedere alla biblioteca, dice: serve un pass per salire. Ma io sono studente della sanitaria. Oh sì, beh, allora devi solo firmare qua e poi entrare. Ah, e allora metto la mia firma. Aspetta. Leggo cosa mi sta proponendo. È un contratto. Un contratto standard per questo genere di cose che dice: ti impegna a non rubare niente dalla sezione. Fino qua. Va bene. Nessun libro. Non è proprio così. Ti impegni a non portare fuori nessun libro della biblioteca. Vabbè, ok. Ok, questa è la definizione rigorosa. Rigorosa. E okay. Per il resto c'è altre postille tipo non danneggiare i libri, cose del genere. Ok. Però è molto standard. La punizione non è la morte istantanea come in altri posti più divertenti, ma è il teletrasporto fuori dalla Zenith. Ok. Cioè vieni bandito dalla biblioteca. Regolare, ci sta. Non sembra così male. Non ci sono postille, non ci sono... Ovviamente lo possono firmare solo quelli che hanno un qualche reference universitario, ecco. Ok, va bene, firmo l'accesso. Ora ti guarda come un cane bastonato. Perché io? Che c'è? Non niente, che è successo? Per entrare. Ah, volevi entrare anche tu? Ti aspetto qua. Puoi entrare anche lei? Me ne prendo io la responsabilità nel caso. Sì, devi firmare tu per lei. Ah, ok, firmo anche per lei. Grazie. Seguimi qualcosa, ti taglio le mani. Mi sembra corretto. Posto. Il cancello si apre automaticamente quando vi avvicinate, ora che avete le carte in regola. E ci sono tante scale che portano fino non al piano di sopra, ma al piano di sopra ancora. Ok. Quindi c'è un lungo corridoio con tutti dei... come cazzo si chiamano? Degli scaffali pieni di libri. E questi sono normali. Ok, quindi... cioè, non è questa parte qua non è la sezione proibita, è la sezione libri che costano. Antichi, okay. Copie uniche, copie originali, robe del genere. Okay. E quindi ci sono libri di teurgia antichi, libri di magia classica, insomma, robe del genere. Dimmi se ti interessa qualcosa in questa sezione, altrimenti alla fine del corridoio c'è la sezione della magia proibita. Magia proibita. That's the thing. Fammi aprire il mio cazzo di documentino. Eccoci qua. La sezione di magia proibita ha un sigillo magico per entrare, non ha una porta, cioè potresti entrare liberamente. Il sigillo magico è così fatto: se si supera la capienza massima, vieni respinto, non puoi entrare. Ok. Ok. E c'è un numero sopra che segnala la capienza massima. Segnala 2. Ora ti guarda e dice: siamo in 2, possiamo entrare. Siamo entrati. Andiamo. E credo voglia dire che non c'è nessuno dentro, perché 2 è il limite massimo. Meglio. Sì, sì, esatto. Privata. La taglio qua. La taglio qua, ci arriviamo dopo. Okay, non dagli altri. Perché se arriviamo, sforiamo, la facciamo o in single player, io e te, o la prossima sessione basta. Perché c'ho una cosa in mente. Vero, Sara? Andiamo. Ok. Ti faccio la descrizione del sogno di Nibel. Mm-hmm. Questa volta... Nibel sta sognando una cosa molto più mondana rispetto ad Adone e semplicemente sta camminando nei campi intorno alla sua casa. Se è nel passato perché non si vede la centrale all'orizzonte. E sì. Non c'è nessuno intorno, però in fondo alla via per cui sta passeggiando si vede casa sua, che è esattamente come se la ricorda nel suo, diciamo, massimo splendore, cioè quando sua madre era viva, ci viveva con sua moglie, c'era ancora sua figlia, e era tutte le attività collaterali legate alla casa erano ancora attive. Mi fa incuriosita, però appunto, cioè, come Adone, Unibel senti per ora soltanto la sua presenza, quindi sei libero di fare ciò che vuoi per il momento. Io a livello di percezione sono quello del presente e sta vivendo il passato, sì. Oppure... Sì, sei quello del presente e sta vivendo il passato. Ora sono fermo per strada e... sto guardando la casa e una parte di me non sa se vuoi andare avanti o meno. Però incomincio a camminare. Man mano che cammini verso la strada, forse come un retropensiero, la casa diventa più lontana invece che vicina. Con ogni passo ti sembra che sia un pochino più all'orizzonte. Si sta allontanando? Sì, man mano che ti ci avvicini. Una parte di me è... stranita, una parte di me è... fa un sospiro di sollievo da questa cosa. Però sento Mif e le dico: vedi anche tu quello che vedo io? Certo, io vedo tutto quello che vedi tu. E normale nei sogni che succeda questa cosa. Devo proseguire. Mith non la vedi, ma senti che sorride e fa: nei sogni non c'è una logica. Sei tu però che puoi fare le scelte. Puoi scegliere di continuare o di creare qualcos'altro. Io continuerei. Giusto per contesto, Adone sta seguendo te, Mif, ed è lì di fianco a te, ma è molto silenzioso, cioè non parlerà. Ecco. Altro per contesto, l'aspetto di Nibel è molto diverso. Cioè, la pelle è molto messa meglio. La barba è corta, è curata. E ha i capelli sempre lunghi, però ce li ha legati in una coda dietro. I vestiti sono puliti in ordine e non ha chiaramente l'avanzare della malattia. Non hai proprio la malattia. Non ho proprio la malattia, sì. Faccio un sospiro e proseguo di nuovo verso la casa per vedere cosa succede. Al momento semplicemente mi faccio trasportare da quello che vedo. Ti sembra come se la terra curvasse e come se la casa, che si stava allontanando all'orizzonte, si ripiegasse su se stessa fino ad arrivare ad essere sopra di te. Momento Inception. Hai detto che sono io a decidere quello che succede nel sogno? Parzialmente, sì. Provo a saltare. Quando salti, vedi che sul tetto della casa c'è un uomo molto vecchio, che tende la mano nella tua direzione e saltando riesce ad afferrarla, se vuoi. Sì, sì, l'afferro. Ti prende e ti tira giù verso di lui, su nel tuo senso, e atterri sul tetto della tua casa. Non so se eri mai stato sul tetto della tua casa, quindi se c'eri stato per qualunque motivo, la vista che c'hai intorno ora diventa esattamente il ricordo che hai di quella vista, altrimenti è una versione che ti puoi immaginare di come sarebbe stato vederla da lì. Probabilmente per riparare il tetto, roba del genere, ci sono stato qualche volta. È proprio una fotografia dell'immagine che hai visto quella volta che hai riparato il tetto. Uguale, quindi proprio gli stessi edifici in lontananza, la stessa strada, le stesse cose. L'uomo non ti è per niente familiare, non hai mai visto quest'uomo in vita tua. Ho bisogno di un secondo solo. È un vecchio, cioè ora non ti so dire l'età esatta, ho bisogno di un secondo per ricercarla, però è anziano. Dammi un secondo. Ha 54 anni in realtà, quindi non è vecchissimo, però rispetto a Nibel, specialmente nel sogno, è più vecchio di te. E se li porta male, cioè è invecchiato rapidamente. Era più o meno all'età di Nibel nel presente. Esatto. E ha le mani tutte rovinate, cioè come se avesse fatto un lavoro estremamente usurante, le unghie tutte rotte, tutte graffiate, sai quando c'hai i segni sulle unghie. E però i suoi abiti non sono da lavoratore, anzi ha i vestiti quasi da soldato. Cioè ora l'esatta denominazione di quella cosa lì non la sa Nibel, la potrei scoprire più avanti, però sono vestiti da qualche carica pubblica statale e hanno infatti i colori che ha la Legio Orbi, quindi giallo e rosso, in forme diverse, cioè sempre quelli sono i colori. Io mi immagino una toga grigia con cuciture rosse e gialle, i bottoni di metallo con rifiniture gialle e i bordi rossi. Quindi, nel senso, si vede che è una cosa standardizzata, non è un Sì. Ok. E hai l'idea che somiglia a qualcuno che hai visto in vita tua, ma non riesci a graspare a chi somigli. Guardo bene. Ci conosciamo? No. Ci conosceremo tra tanti anni. E nei sogni certo. Si vede il futuro? O il passato, in questo caso. Ho bisogno del tuo aiuto. Sentiamo. Sono certo che hai le tue motivazioni che ti spingono a fare tutto quello che stai facendo. E sono certo che nel tuo percorso di vendetta troverai molti che saranno disposti a unirsi alla tua crociata. Io sono uno di questi. Quindi ho avuto successo? Il tempo ce lo dirà. Questo mi dà speranza. I morti non ne hanno molta. Il mio nome è Heracles. Scusate. Piacere di conoscerti. Hai avuto modo di conoscere chi mi ha ucciso? Ah sì? Sì. Purtroppo ci sono delle regole che fatico a comprendere da questo lato. E non posso dirti i dettagli. Ma credo che riuscirei ad arrivare alla conclusione. Puoi dirmi di più su questa persona? Tanto tempo fa, 4 anni fa, nel corpo che ho ora, le lessi il futuro e la lettura diceva: dominerai la terra e chi vi dimora, ma una bambina di umili natali prenderà il tuo cielo. Certe persone non sono pronte ad accettare di essere scavalcate, e quello che ha fatto quella persona, quella che mi ha ucciso, è inaccettabile. Sai che tutte queste informazioni che mi stai dando al momento sono molto confuse. Come ti dicevo, ci sono delle regole che neanch'io comprendo. Una bambina di umili natali, dicevi? Esatto. Ti ricorda qualcuno? Sì. Posso aiutarti in un altro modo. La persona che ha ucciso me e quella bambina ha un punto debole. Posso saperlo? Le lumache. Qualche altra regola? Le lumache. Senti, esatto. Nif ridere attraverso il sogno. Spero non sia una battuta. No, questa è l'unica opportunità che ho di fare questa cosa. Qualunque cosa abbiate fatto prima di permettermi di comunicare con te ha aperto un varco e un frammento della mia anima lo ha attraversato. Così ti sto rivelando qualche informazione. Se tentassi dirti più, penso che sparirei immediatamente. L'universo ha delle difese. Fai parte del futuro che ha visto Cronos? Ero già morto. Ci sono altre informazioni che puoi dirmi, Heracles? Ci siamo incontrati. Anche se non potevo parlarti. E non molto altro, temo. Mi siedo sul tetto dove ci troviamo adesso. E comunque è più di quello che mi aspettavo. Immagino avresti preferito parlare con un altro fantasma. Non importa. Quando ero vivo ero abbastanza abile. Se vuoi posso fare un tentativo. Per richiamare qualcuno, intendi? Qualcuno con cui vuoi parlare. Qualcuno a cui non hai potuto dire addio. No, va bene così per ora. Non credo di avere le qualità e il diritto di parlarle. Non ora. Se esiste un paradiso per le persone valorose, sono certo che vi incontrerete lì. Se la strada che è segnata nel mio futuro rimarrà tale, dubito fortemente che il paradiso sarà il mio posto finale. L'uomo sorride, si alza in piedi e cammina via. Faccio un cenno, vi saluto. E metto la mano sul tetto, do qualche pacca, ma quando si dà qualche pacca qualcosa qui tieni, e mi immagino chi possa trovarsi dentro quella casa, però non chiamo nessuno, perché so che se dovessi rivederle ora, ne vorrei di più. E vorrei rivederle ancora di nuovo. Quindi per ora va bene così. Guardo i campi che un tempo erano miei. Miss, vedendoti, scusami, ma volevo chiederti cosa fa Mif. Infatti, insomma, ascoltando questa interazione, adesso vedendoti fermo sul tetto, con un tono stranamente gentile, ti fa: vuoi che per oggi interrompiamo? O ti piacerebbe rimanere un pochino di più? Dammi ancora 5 minuti. Certo. Si posso rimanere da solo e poi... Sì, infatti si allontana, cioè senza che tu lo chieda, senti la sua presenza allontanata. Puoi rompere la spell, se è quello che vuoi. Esatto, cioè dipende da Nibel. Rimango 5 minuti qua sul tetto a guardare i campi e poi... Puoi interrompere la spell. Vi dico una cosa a tutti, decidete voi chi la sa, chi non la sa, eccetera. Il sogno di Nibel è stato strano, nel senso, mi fa un certo controllo sui sogni e riesce a sentire quando le cose provengono da chi sta sognando. Questa interazione non era di questo genere, cioè era qualcosa di esterno che si è infiltrato nel sogno. E non riesce a toglierti il retropensiero di nuovo, che sia collegato ad Adone, anche se non hai modo di verificarlo, testarlo, eccetera. È proprio un, come si dice, c'è un hunch, un'intuizione. Sì, c'è la pulce nell'orecchio. Sì, tipo. Esatto, cioè il tizio ha detto sta cosa qua di quello che avete fatto prima, la presenza non era mai stata così, c'è un'anima, insomma. E anche per, vabbè, per Nibel è strano perché nel sogno c'era una presenza che ti stava guidando, quella di Mif, quindi già per quello era diverso dal solito. Non capito. Perfetto. Non vi dico altro, ditemi voi cosa volete fare. Mif vuole farsi tipo una foto mentale di come sono i campi di Nibel. Di com'è che sono adesso con la centrale, cioè riesce un attimo ad orientarsi, allora, a esplorare di più. Fai fatica a, come si dice, riportare l'immagine che vedevi nel sogno di Nibel all'immagine che hai visto oggi. Cioè non sapresti in che punto preciso siano i campi, capito? Ok. Però più che altro tutto un po' omogeneo oggi, ok? Cioè i campi che ci sono oggi, a parte le catapecchie, sono un po' tutto uguali. E però sì, in effetti è diversa l'erba, proprio. Cioè il colore dell'erba è diverso. Memorizza bene la casa, memorizza bene la via, insomma, cioè si ritrascrive probabilmente anche da qualche parte, giusto perché magari possono essere utili. Però, come volere di Nibel, lei rimane più distante finché non le verrà chiesto di interrompere la spalla. Ok. Sì, sì, perfetto. Volete fare la scena dopo che si sveglia o passo a Lieto? Indifferente. Sì, se vuoi dai, passa a Lieto. La chiudo la sessione, eh? Sì, chiudo il tour. Sì, sì, chiudi, sì. Chiudi. Non so se c'è una canzone adatta, ma metterò questa. Ho bisogno di un secondo. Solo un secondo. Dov'è? Non so perché non funziona come dovrebbe sto cazzo di bot. Perché secondo dove scrivo non lo prende. Oggi l'ha preso. Ci siete solo voi due nella biblioteca proibita. Ve lo hanno fatto intuire al piano terra. E il sigillo magico chiaramente segnalava, ve l'hanno fatto intuire al piano terra perché hai firmato due volte e non c'erano altre firme nel foglio di oggi, quindi siete i primi due ad accedere. Ok. Il sigillo poi, a maggior ragione, segnalava che c'era spazio per due persone e non c'era nessuno dentro, quindi siete entrati. La biblioteca è così strutturata, la parte proibita. Sulla destra c'è una serie di finestre con delle inferriate in modo che non si possa passare. E realisticamente, se fai un check, senti anche che c'è qualcosa di magico che impedisce di entrare. Però non è necessario che tu lo faccia. Sulla sinistra ci sono tante scaffali, librerie, come il Dipartimento di Informatica di Pisa, lo immagino. Quindi c'è un passaggio molto stretto dove passare e degli scaffali pieni colmi fino all'orlo di libri. Ho abbassato un attimo il volume, scusate. Davanti ad ogni scaffale c'è una targhetta che rappresenta il tipo di libri all'interno di quello scaffale. Ok? Okay. Benissimo. Te li elenco e tu mi dici se ti interessano o meno. Il primo, proprio la prima secca, è Magie del 500. No. La seconda è Teurgia dell'epoca di Dio. Interessante, lo mettiamo da parte. Ora è molto interessata. Immaginavo. Al terzo, Protoalchimia e Magia del Patto. No, we move on, I guess. il quarto, stregoneria Shunar. E... no. Sul quinto, la targhetta è visibile da prima di arrivarci, cioè dall'esterno si vede, è come se fosse staccata e ruotata di 45 gradi, per cui si legge. E la targhetta recita demonologia. Questo si prende, dai. Ora ha un brivido lungo la schiena e ti tiene per il polso, prima che tu riesca ad arrivarci. Sì, sì, no, no, lo so che non devo leggere la roba di... Non ti occupare ora, non ti occupare. È terrorizzata e dice, non dovevamo essere soli? Soli? Siamo soli. E... non dice nient'altro. E mi guarda intorno, c'è qualcuno? Non sembra esserci nessuno. Vuoi andare avanti e vedere la libreria? Sì. Giri l'angolo e c'è una persona, effettivamente. Eppure non percepisci né la sua forza magica, né un suono, né niente. Come se fosse uno spettro. E quest'uomo è vestito di nero, ha gli abiti lunghissimi. E è di tre quarti rispetto a te, quindi lo vedi in così. Sì. Ed è molto più alto di te. Cioè, è altissimo. È così alto che non riesci a vederlo al di sopra della bocca. Cioè, è come se fosse oltre il tuo raggio di visibilità. E la sua bocca è fatta di denti che sorridono. Si gira verso di te. Ha in mano un libro azzurro e dice: cercavi questo? Finisce qua la sessione. No, dai! No. Questo è il re dei cliffhanger. Ma... è il re dei cliffhanger. Pianis. No, ma...